Capitolo 34. L'errore di un innamorato. Era pomeriggio. Molly era uscita per una passeggiata. Mrs. Gibson era fuori in visita. L'indolente Cinzia si era rifiutata di accompagnarle. Una camminata al giorno non era necessaria per lei come lo era per Molly. In una bella giornata, o con un proposito piacevole, o quando ne aveva voglia, ella poteva spingersi fino a lunghe distanze, ma erano casi eccezionali. In generale, non era disposta a interrompere le proprie occupazioni domestiche. Per la verità, nessuna delle signore avrebbe lasciato la casa se avesse immaginato che Roger si trovava nei dintorni. Sapevano infatti che lui sarebbe tornato solo una volta prima della partenza, che il suo soggiorno a casa sarebbe stato brevissimo, ed erano tutte ansiose di salutarlo prima della sua prolungata assenza. Avevano capito però che egli non si sarebbe presentato a Hamley Hall fino alla settimana successiva, perciò si erano sentite pienamente libere quel pomeriggio di seguire le proprie inclinazioni. Molly scelse una passeggiata che era tra le sue preferite sin da quando era una bambina. Prima di uscire era accaduto qualcosa che l'aveva spinta a chiedersi quanto fosse opportuno, per amore della pace domestica, sorvolare senza commenti sulle lievi deviazioni dal gusto che le persone percepiscono in coloro con cui vivono. O se, già che esse sono collocate nella loro famiglia per scopi precisi e non solo per caso, non vi siano dei doveri coinvolti in questo aspetto della loro sorte, ovvero se trascurando continuamente quelle mancanze i loro parametri non si abbassino. L'applicazione pratica di queste meditazioni era una perplessità sconcertante per Molly, che si domandava se il padre fosse del tutto cosciente dei perpetui sviamenti dalla verità della matrigna e se quella cecità fosse intenzionale oppure no. Poi, piuttosto amaramente, ella sentì che, sebbene certissima che non esistesse alcun reale distacco tra lei e suo padre, tuttavia c'erano continui ostacoli che si frapponevano sul loro rapporto, e pensò con un sospiro che, se solo lui avesse voluto imporre la propria autorità, avrebbe potuto riaprire la strada verso la loro vicinanza di un tempo, così da riprendere le passeggiate, le chiacchierate di una volta, i giochi di parole e i momenti di vera confidenza, cose cui la matrigna non dava alcun valore, ma che, come il cane nella mangiatoia, impediva a Molly di ricevere. Dopotutto però Molly era una ragazza non ancora lontana dall'infanzia e nel culmine dei suoi gravi rimpianti e delle sue perplessità il suo sguardo fu catturato dalla vista di alcune belle more mature che crescevano alte sulla siepe, fra i frutti scarlatti della rosa canina e le foglie verdi e ruggine. Da parte sua non era attratta dalle more, ma aveva sentito Cinzia dire che le piacevano. Inoltre c'era il fascino dell'arrampicarsi per coglierle, così ella dimenticò tutti i suoi guai. Si inerpicò sulla siepe, afferrò il quasi irraggiungibile trofeo e scivolò giù trionfante per portarlo a casa in una larga foglia che le sarebbe servita da cestino. Ne assaggiò un paio, ma al suo palato parvero più insapori che mai. La gonna del suo bell'abito stampato era tutta in disordine e per via della frutta che aveva mangiato, le sue belle labbra erano tutte imbrattate e tinte di more, quando, avendo raccolto tutte quelle che le era possibile trasportare, prese la via di casa, sperando di sgattaiolare nella sua stanza e sistemarsi il vestito prima che questo offendesse l'occhio preciso di Mrs. Gibson. La porta principale si apriva facilmente dall'esterno e Molly si ritrovò lontana dalla chiara luce dell'aria aperta e nell'oscurità dell'ingresso. Vide un viso spuntare dalla sala da pranzo prima di riconoscere pienamente di chi si trattasse e poi Mrs. Gibson uscì dolcemente, abbastanza da poterle fare cenno di avvicinarsi. Quando Molly entrò, Mrs. Gibson chiuse la porta. La povera Molly si aspettava una reprimenda per la sua gonna strappata e il suo aspetto sciatto, ma fu presto sollevata dall'espressione del volto di Mrs. Gibson, misteriosa e raggiante. «Ho aspettato che arrivassi, cara. Non andare su in salotto, amor mio. In questo momento potrebbe causare una piccola interruzione». Roger Hamley si trova lì con Cinzia e ho ragione di credere. In verità ho aperto inconsapevolmente la porta e l'ho richiusa pian piano e non penso che mi abbiano sentita. Non è meraviglioso? L'amore giovanile, sai? Ah, com'è dolce! Intendete dire che Roger ha chiesto a Cinzia di sposarlo? Non esattamente, ma non lo so ovviamente, non so nulla. Solo che l'ho sentito dire che aveva deciso di lasciare l'Inghilterra senza parlarle dei propri sentimenti. Però la tentazione nel rivederla da sola è stata troppo grande per lui. Era destino, no, mia cara? E tutto ciò che volevo era lasciare che la cosa raggiungesse il suo culmine senza interruzioni. Così sono stata qui ad aspettarti per impedirti di entrare e disturbarli. Ma nella mia stanza ci posso andare, vero? Supplicò Molly. Ma certo, rispose Mrs. Gibson un po' stizzita, però mi sarei aspettata la tua simpatia in un momento così interessante. Eppure Molly non sentì queste ultime parole. Era scappata di sopra e aveva chiuso la porta. Aveva istintivamente portato con sé la foglia piena di more. Cosa avrebbero significato ora per Cinzia? Sentì di non poter capire, ma quanto a questo, cosa poteva capire? Niente. Per qualche minuto la sua testa sembrava troppo confusa per comprendere alcunché, se non che si stava facendo trascinare nel cammino diurno della terra, insieme alle rocce, alle pietre, agli alberi, con una così esigua volontà personale da sembrare morta. Poi la stanza divenne soffocante e per istinto le si avvicinò alla finestra aperta e si affacciò, ansando, per prendere fiato. Gradualmente la vista del panorama dolce e pacifico si insinuò nella sua mente e placò l'intontimento e la confusione. Là, bagnato dai raggi quasi piatti del sole d'autunno, c'era il paesaggio che conosceva e amava sin dall'infanzia, quieto e denso di piccole vite mormoranti, come era quell'ora da generazioni. I fiori autunnali splendevano nel giardino sotto di lei, le vacche pigre erano sparse nei prati più lontani, ruminando il loro boro nel verde fieno di secondo taglio. I fuochi della sera erano appena stati accesi nei cottaggi distanti, in attesa del ritorno dell'uomo di casa, e lasciavano salire nell'aria immobile morbidi riccioli di fumo azzurrino. I bambini, fuori da scuola, strillavano allegri in lontananza, e lei. Proprio allora udì dei suoni più vicini, una porta aperta, passi sulla fuga più bassa di gradini. Lui non avrebbe potuto andare via senza nemmeno vederla. Mai, mai avrebbe fatto una cosa così crudele. Mai avrebbe dimenticato la povera piccola Molly, per quanto felice potesse essere, no. C'erano dei passi e c'erano delle voci, e la porta del salotto si aprì e si richiuse. Ella posò la testa sulle braccia abbandonate sul davanzale. E pianse. Era così disperata da essersi convinta che lui sarebbe potuto partire senza salutarla. Lei, che sua madre aveva amato tanto, chiamandola con il nome della sua sorellina morta. E al pensiero del tenero affetto che Mrs. Hamley le aveva portato, Molly pianse ancora di più, per quell'amore per lei che era svanito dalla faccia della terra. All'improvviso la porta del salotto si aprì e si udì qualcuno salire le scale. Era il passo di Cinzia. Molly si asciugò gli occhi in fretta, si raddrizzò e tentò di apparire tranquilla. Questo fu tutto ciò che ebbe il tempo di fare prima che Cinzia, dopo una breve pausa davanti alla porta chiusa, bussasse. E quando Molly rispose, ella disse senza aprire la porta: Molly, Roger Hamley è qui, vuole salutarti prima di andare. Poi scese nuovamente le scale, come ansiosa proprio in quel momento di evitare anche il più breve tête-à-tête con Molly. Ricacciando indietro le lacrime con un impeto risolutivo, come un bambino che si fa coraggio per ingoiare una disgustosa medicina. Molly scese all'istante. Quando entrò, Roger stava parlando animatamente con Mrs. Gibson nel recesso della finestra. Cinzia stava lì vicino, in piedi, ascoltando, ma senza partecipare alla conversazione. I suoi occhi erano chini e non li alzò quando Molly le si avvicinò timidamente. Roger stava dicendo: Non mi sarei mai perdonato se avessi accettato una garanzia da parte sua. Lei sarà libera fino al mio ritorno, ma la speranza, le parole, la sua dolce bontà mi hanno reso felice in modo indescrivibile. Oh, Molly! Accorgendosi improvvisamente della sua presenza e voltandosi verso di lei, prendendole la mano in entrambe le proprie. Penso voi abbiate indovinato da tempo il mio segreto, vero? Una volta ho pensato di parlarvi prima di partire, di confidarvi tutto, ma la tentazione è stata troppo grande. Ho detto a Cinzia quanto l'amo, più di quanto le parole possono esprimere. E lei dice: E allora guardo Cinzia con appassionata delizia e sembra dimenticare, con lo sguardo, di aver lasciato a metà la frase diretta a Molly. Cinzia non sembrò intenzionata a ripetere ciò che aveva detto, qualunque cosa fosse, ma lo fece sua madre al posto suo. La mia cara dolce figliola dà al vostro amore il valore che si merita, ne sono certa. E io credo, guardando Cinzia e Roger con sottile malizia, di poter dire qualcosina sulla causa della sua indisposizione la scorsa primavera. Mamma, ribatte Cinzia di colpo, sai che non si trattava di niente del genere. Ti prego di non inventare storie su di me. Mi sono fidanzata con Mr. Roger Hamley e questo è abbastanza. Abbastanza? Più che abbastanza, disse Roger. Non accetterò un pegno. Io sono legata a voi, ma voi siete libera. Mi piace sentirmi legato, mi rende felice, in pace, ma con tutte le variabili connesse ai prossimi 2 anni, voi non dovete vincolarvi a delle promesse. Cinzia non rispose immediatamente, stava evidentemente rimuginando qualcosa. Mrs. Gibson prese la parola. Voi siete molto generoso, non c'è dubbio. Forse sarà meglio non dire nulla. Sarebbe molto meglio mantenerlo segreto, confermò Cinzia. Certo, caro amor mio, era proprio quello che stavo per dire. Una volta ho incontrato una giovane donna che aveva saputo della morte di un giovanotto in America che lei conosceva molto bene e disse immediatamente che era fidanzata con lui e arrivò al punto di portare il lutto. Ed era invece una notizia falsa, perché lui tornò sano e felice e dichiarò a tutti di non aver neanche mai pensato a lei. Così per lei fu molto imbarazzante. Meglio tenere segrete queste cose finché non giunga il momento giusto di divulgarle. Persino allora Cinzia non riuscì a resistere alla tentazione di replicare. Mamma, ti prometto che non metterò a lutto qualunque notizia riceveremo su Mr. Roger Hamley. Roger, per favore, la pregò lui con un tenero bisbiglio. E voi tutte sarete testimoni del fatto che ha dichiarato di pensare a me, se in seguito avesse la tentazione di negarlo. Ma allo stesso tempo io desidero che questo rimanga un segreto fino al suo ritorno e sono certa che tutti sarete così gentili da secondare la mia volontà. Vi prego, Roger, per favore, Molly, mamma, lo chiedo in particolar modo a te. Roger avrebbe garantito qualunque cosa quando lei lo pregò usando quel nome e con quel tono. Le prese la mano come muta garanzia di replica. Molly sentiva che non sarebbe mai potuta arrivare a menzionare la vicenda come se fosse una notizia comune. Così solo Mrs. Gibson riprese ad alta voce. Mia cara bambina, specialmente a me, poverina che sono, tu sai che sono la persona più affidabile del mondo. Il piccolo orologio sulla mensola del camino batté la mezz'ora. Devo andare, disse Roger sconcertato. Non avevo idea che fosse così tardi. Scriverò da Parigi. La carrozza sarà arrivata alla George e si ferma solo 5 minuti. Carissima Cinzia, le prese la mano e poi, se la tentazione fosse irresistibile, l'attirò a sé e la baciò. Ricordate solo che siete libera, affermò, lasciandola alle cure di Mrs. Gibson. Se mi fossi considerata libera, replicò Cinzia arrossendo un po', ma fino all'ultimo pronta alla battuta di spirito, se mi fossi ritenuta libera, pensate che questo ve l'avrei lasciato fare? Poi venne il turno di Molly e l'antica tenerezza fraterna tornò negli occhi del giovane, nella sua voce, nel suo modo di fare. Molly, so che non mi dimenticherete. Io non dimenticherò né voi né la vostra bontà nei confronti di lei. La sua voce iniziò a tremare e fu meglio che si congedasse. Mrs. Gibson stava riversando su di lui inascoltate e inosservate parole d'addio. Cinzia stava risistemando dei fiori in un vaso sopra il tavolo, le cui imperfezioni avevano attirato il suo occhio artistico, pur inconsapevolmente. Molly stava in piedi con il cuore intontito, né lieta né dispiaciuta né altro, solo tramortita. Sentì scemare il tocco della calda mano che stringeva la sua. Alzò gli occhi, perché fino a quel momento erano rimasti chini, come se sulle palpebre gravassero grandi pesi. E il luogo dove lui era stato era vuoto. Il suo passo rapido si udì lungo le scale, la porta d'ingresso si aprì, si richiuse, e allora, veloce come il lampo, Molly corse alla soffitta che si apriva sulla facciata della casa. il ripostiglio, le cui finestre davano sulla strada che lui doveva ripercorrere. La chiusura della finestra era inutilizzata e rigida. Molly la strattonò. Se non si fosse aperta e lei non avesse sporto la testa, quest'ultima occasione sarebbe svanita. «Devo vederlo ancora una volta, devo!» gemeva, tirando la maniglia. Ed eccolo là, che correva forte per prendere la carrozza diretta a Londra. Il suo bagaglio era stato lasciato alla George prima che venisse a salutare le Gibson. In tutta quella fretta Molly lo vide voltarsi, schermarsi gli occhi dai raggi bassi del tramonto e scrutare la casa, nella speranza, lei lo sapeva, di cogliere un'altra volta ancora l'immagine di Cinzia. Ma apparentemente egli non vide nessuno, nemmeno Molly dietro la finestra della soffitta. Infatti, quando il giovane si era girato, lei si era ritratta, si era tenuta nell'ombra. Non aveva alcun diritto di farsi avanti, di essere colei che brama e che aspetta un segno di addio. Non ne fu fatto alcuno. Un altro istante ed egli disparve per anni a venire. Molly chiuse piano la finestra, tremando da capo a piedi. Lasciò la soffitta per la sua stanza, ma non cominciò a togliersi gli abiti da passeggio fino a che non udì i piedi di Cinzia sulle scale. Allora si avvicinò lesta al tavolino da toeletta e iniziò a slegare i lacci del cappello, ma erano tutti ingarbugliati e ci volle tempo per disfare il nodo. Il passo di Cinzia si arrestò alla porta di Molly. La giovane l'aprì lievemente e disse: «Posso entrare, Molly?» «Certo», rispose Molly, desiderando intanto con tutto il cuore la capacità di dire no. Non si girò per venirle incontro. Così Cinzia si avvicinò alle sue spalle e, posandole le mani intorno alla vita, sbirciò oltre la sua spalla, atteggiandole le labbra un bacio. Molly non poté resistere a quel gesto, a quella muta richiesta di una carezza, ma un momento prima aveva colto il riflesso dei due volti sullo specchio. Il proprio, pallido, con gli occhi arrossati, le labbra macchiate di succo di more, i riccioli arruffati, il cappellino storto, l'abito strappato, e lo paragonò con lo splendore e il colorito roseo del viso di Cinzia e con il lindore e l'eleganza del suo abito. «Oh, non c'è da meravigliarsi», pensò la povera Molly, voltandosi per abbracciare Cinzia e posandole il capo per un attimo sulla spalla. Il capo stanco e dolorante, che cercava un cuscino amorevole in quel momento supremo. Un istante dopo aveva rialzato la testa e, prendendo entrambe le mani di Cinzia, l'allontanò un poco da sé per poter meglio leggere il suo volto. «Cinzia, tu lo ami molto, vero?» Cinzia si ritrasse leggermente, trasalendo un po' per la fissità penetrante di quegli occhi. «Parli con tutta la solennità di un giuramento, Molly», esclamò, prima che con un risolino che nascondesse la sua agitazione, e poi sollevando gli occhi su di lei. «Non credi che ne abbia data prova? Ma lo sai, ti ho spesso detto che io non possiedo il dono di amare. A lui ho spiegato la stessa cosa. Posso nutrire rispetto e penso di saper provare ammirazione. E sono in grado di farmi piacere qualcuno. Ma non mi sento mai travolta dall'amore per nessuno, neanche per te, Molly. E di certo voglio più bene a te che a...» «No, non dirlo», esclamò Molly, posando la mano sulla bocca di Cinzia, quasi in un impeto di impazienza. «No, no, non voglio sentire. Non avrei dovuto chiedertelo. Ti induce a mentire». «Insomma, Molly», replicò Cinzia, a sua volta tentando di leggere il viso dell'altra. «Che problema c'è? Si potrebbe pensare che sia tu a volergli bene». «Io?» fece Molly, mentre il sangue le fuliva all'improvviso tutto dentro al cuore. Poi si riprese, ebbe il coraggio di parlare ed espresse la verità a cui lei credeva, sebbene non fosse l'autentica, reale verità. «Certo che gli voglio bene. Credo che tu abbia conquistato l'amore di un principe fra gli uomini. Insomma, sono orgogliosa di ricordare che lui è stato come un fratello per me. Io lo amo come una sorella e amo te il doppio, perché lui ti ha onorata del suo amore». «Andiamo, questo non è lusinghiero», rise Cinzia, a cui però non spiaceva sentire le lodi del proprio innamorato, quasi disposta a ridimensionarlo un po' per poterne ascoltare di più. «Direi che è abbastanza buono e decisamente troppo erudito e intelligente per una ragazza stupida come me, ma persino tu devi riconoscere che è proprio bruttino e goffo, e a me piacciono le cose belle e le persone belle». Cinzia, non parlerò di lui con te. Tu sai che non intendi davvero ciò che stai dicendo e che lo dici solo per amore di contraddizione, perché io lo sto elogiando. Lui non sarà disprezzato da te neanche per scherzo. Va bene, allora, non parliamo di lui per niente. Ero così sorpresa quando hai iniziato a parlare così. E Cinzia apparve molto tenera, mentre arrossiva e le spuntavano le fossette al ricordo delle sue parole e dei suoi sguardi. All'improvviso tornò in sé e i suoi occhi caddero sulle foglie piene di more. La foglia larga e verde, così fresca e fragrante quando Molly l'aveva raccolta circa un'ora prima, ma ora flaccida e floscia e morente. Anche Molly la vide e sentì una sorta di strana ed empatica pietà per quella povera foglia inanimata. «Oh, che more! Le hai raccolte per me, lo so!» esclamò Cinzia, sedendo e incominciando a mangiarle con grazia, toccandole leggermente con la punta delle dita sottili e lasciandosi cadere nella bocca aperta tutte quelle mature. Quando ne ebbe gustate quasi la metà, si arrestò bruscamente. «Come mi piacerebbe essere andata con lui fino a Parigi!» affermò. «Immagino che non sarebbe stato appropriato, ma come sarebbe stato bello! Mi ricordo che a Boulogne, altra mora, invidiavo sempre gli inglesi che andavano a Parigi. Mi sembrava come se nessuno si fermasse a Boulogne, se non le stupide, noiose allieve della scuola.» «Quando arriverà lì?» chiese Molly. «Mercoledì», ha detto. «Dovrò scrivergli laggiù. In ogni caso, mi scriverà lui.» Molly si mise a sistemarsi il vestito in atteggiamento indaffarato e quieto, senza dire molto. Cinzia, sebbene sedesse immobile, appariva decisamente inquieta. Oh, Molly desiderava tanto che se ne andasse. «Forse, dopo tutto», disse Cinzia, dopo una pausa di apparente riflessione, «non ci sposeremo mai.» «Perché dici questo?» replicò Molly amaramente. «Non c'è niente che possa indurti a pensarlo. Mi domando come tu possa sopportare quest'idea anche solo per un momento.» Fece Cinzia. «Non devi prendermi granché seriamente. Diciamo che non intendevo parlare così, ma vedi, adesso sembra tutto un sogno. Eppure penso che le possibilità siano le stesse, le possibilità a favore o contro le nostre nozze, voglio dire. Oppure potrebbe spuntare qualcun altro e dire che sono fidanzata con lui. Cosa ne penseresti, Molly? Sto lasciando perdere idee tetre come la morte, come vedi. Però quante cose possono accadere in 2 anni?» «Non parlare così, Cinzia, ti prego», lamentò Molly. «Si potrebbe pensare che non ti interessa di lui e lui ti ama tanto.» «Beh, ho detto che di lui non mi interessa? Stavo solo calcolando le probabilità. Di sicuro spero che non accada nulla che possa impedire il matrimonio. Solo che, lo sai, può succedere. E ho reputato che fosse un gesto saggio pensare a tutte le brutte cose che possono capitare. Di certo tutte le persone sagge che ho conosciuto ritengono che sia una virtù fare cattive profezie sul futuro, ma vedo che tu non sei di umore saggio né virtuoso. Perciò vado a preparare la cena e ti lascio alle vanità del tuo abito.» Prese il viso di Molly in entrambe le mani, prima che lei se ne rendesse conto, e lo baciò con intento giocoso. Poi la lasciò sola. Capitolo 35. Le manovre di una madre. Mr. Gibson non rientrò in tempo per la cena. Molto probabilmente fu trattenuto da qualche paziente. Era una cosa che accadeva spesso, ma era piuttosto infrequente che Mrs. Gibson scendesse in sala da pranzo e sedesse con lui, mentre rincasato un'ora o due in ritardo, egli consumava il suo tardo pasto. In generale, ella preferiva la sua poltrona, il suo angolo del divano, di sopra, in salotto, ma era molto raro che consentisse a Molly di approfittare del privilegio trascurato dalla matrigna. La ragazza sarebbe andata volentieri a tenere compagnia a suo padre tutte le sere in cui egli era costretto a questi pasti solitari, ma per la pace e per la calma sacrificava i propri desideri a riguardo. Mrs. Gibson prese posto vicino al fuoco in sala da pranzo e aspettò pazientemente il momento opportuno in cui il marito, soddisfatto il suo sano appetito, lasciasse la tavola per accomodarsi accanto a lei. Allora si alzò e con inusitata cura spostò il vino e i bicchieri, così che egli potesse servirsi senza spostarsi dalla sedia. «Ecco fatto. Siete comodo? Ho una grande notizia da riferirvi», disse, quando fu tutto in ordine. «Immaginavo che ci fosse qualcosa sotto», commentò lui con un sorriso. «Sentiamo.» Roger Hamley è stato qui oggi pomeriggio per salutarci. Salutarvi? È partito! Non sapevo che sarebbe andato via così presto, esclamò Mr. Gibson. Sì, ma non importa, non si tratta di questo. Ma dimmi, ha lasciato il circondario? Avrei voluto vederlo. Sì, ha lasciato affetto e nostalgia e tutte queste cose per voi. Ora lasciatemi continuare questa mia storia. Ha sorpreso Cinzia da sola. Le ha chiesto di sposarlo e lei ha accettato. Cinzia? Roger gli ha chiesto di sposarlo e lei lo ha accettato, ripeté lentamente Mr. Gibson. Sì, certo, perché no? Ne parlate come se fosse qualcosa di molto sorprendente. Oh sì? Beh, ma sono sorpreso. È un giovanotto molto a modo e desidero che Cinzia sia felice, ma tu approvi? Dovrà essere un fidanzamento molto lungo. Forse, replicò lei, nel modo di chi la sa lunga. Comunque starà via per 2 anni, osservò Mr. Gibson. Tante cose possono accadere in 2 anni, replicò la moglie. Sì, lui dovrà affrontare molti pericoli e correrà parecchi rischi, e quando tornerà non avrà tante più possibilità di mantenere una moglie di quante ne avesse quando è partito. Questo non lo so, disse lei, ancora con quel fare malizioso di chi ne sa di più. Un uccellino mi ha raccontato che la vita di Osborne non è così sicura. E allora, cosa diventerà Roger? Erede della tenuta. Chi ti ha detto questo su Osborne? Ribatté il dottore, puntandole gli occhi addosso e spaventandola con l'improvvisa severità dei modi della voce. Sembrò come se autentico fuoco uscisse dai suoi occhi allungati, scuri e tenebrosi. Chi te ne ha parlato, dico? Ella fece un debole tentativo di tornare alla giocosità di prima. Perché? Potete negarlo? Non è la verità? Te lo domando di nuovo, Jacinth. Chi ti ha detto che la vita di Osborne è più in pericolo della mia o della tua? Oh, no, non parlate in questo modo spaventoso. La mia vita non è in pericolo, ne sono certa, e neanche la vostra, mi auguro, amor mio. Con un tono di impazienza, egli spinse via dal tavolo un bicchiere da vino. Per un attimo ella fu grata per quel diversivo e si affrettò a raccogliere i frammenti. I pezzi di vetro sono così pericolosi, commentò, ma fu fatta trasalire da un tono di voce imperioso che mai aveva sentito provenire da suo marito. Lascia perdere il bicchiere. Te lo chiedo ancora, Jacinth. Chi ti ha informata sullo stato di salute di Osborne Hamley? Di certo non gli auguro alcun male. E direi che la sua salute è molto buona, come voi confermate, sussurrò lei infine. Chi ti ha detto? Ricominciò il marito, più arcigno che mai. Beh, se proprio lo volete sapere e volete sapere tutto questo chiasso, disse lei portata all'estremo, siete stato proprio voi o il dottor Nichols, quale dei due me lo sono dimenticato. Io non ti ho mai parlato di questo argomento e non credo che Nichols l'abbia fatto. Farei meglio a dirmi immediatamente a cosa alludi, perché sono decisa a non lasciare questa stanza prima di averlo saputo. Vorrei non essermi risposata, lamentò lei, quasi piangendo, e guardandosi intorno nella stanza come nella vana ricerca di una piccola tana in cui nascondersi. Poi, quasi che alla vista della porta che si apriva sulla dispensa le avesse dato coraggio, si voltò e lo affrontò. Allora, non dovreste parlare così ad alta voce dei vostri segreti professionali, se non volete che la gente vi senta. Il giorno che era qui il dottor Nichols, sono dovuta andare in dispensa. Alla cuoca serviva un barattolo di marmellate e mi fermò proprio mentre stavo uscendo. Di sicuro non è stato il mio desiderio, infatti avevo una gran paura di sporcarmi i guanti. E tutto perché voi poteste avere una buona cena. Sembrò di nuovo sul punto di mettersi a piangere, ma lui le fece gravemente cenno di continuare dicendo solo: Bene, immagino che tu abbia origliato la nostra conversazione. Non a lungo, rispose lei, zelante, quasi sollevata per il fatto di essere stata aiutata con la forza a confessare. Solo una frase o due. E quali erano? Chiese lui. Beh, voi avevate appena affermato qualcosa, il signor Nichols disse: Se ha un aneurisma all'aorta, i suoi giorni sono contati. Bene, altro? Sì, Voi avete risposto: prego Dio di essere in torto, ma a mio parere i sintomi parlano chiaro. Come sai che stavamo parlando di Osborne Hamley? Chiese il marito, sperando forse di portarla fuori strada, inducendola a tradirsi. Ma non appena ella si accorse che lui si stava abbassando al suo stesso livello di sotterfugio, si fece coraggio e dichiarò con un tono di voce completamente diverso da quello intimorito espresso fino ad allora. «Ah, lo so! Ho sentito che entrambi menzionavate il suo nome prima che io iniziasse ad ascoltare. Dunque ammetti di averlo ascoltato?» «Sì», rispose, ora un po' esitante. «E di grazia? Com'è che ti ricordi così esattamente il nome della malattia di cui abbiamo parlato?» «Perché sono andata...» «Ora non vi arrabbierete. Davvero, non vedo alcun male in ciò che ho fatto. E allora non avere paura che mi arrabbi. Sei andata nel vostro ambulatorio e ho cercato la parola, perché non potevo.» Mr. Gibson non rispose. Non la guardò. Il suo viso era molto pallido e sia la fronte che le labbra erano contratte. Alla fine si alzò sospirando e disse: «Bene, chi semina raccoglie, suppongo.» «Non capisco ciò che intendete», ribatte lei imbronciata. «Forse no», replicò l'uomo. «Immagino che sia stato ciò che hai udito in quell'occasione ad averti fatto cambiare atteggiamento nei confronti di Roger Hamley. Mi sono accorto di quanto più gentile sei stata con lui di recente. Se volete dire che abbia iniziato a piacermi quanto Osborne, vi sbagliate di grosso. No, neanche se ha chiesto a Cinzia di sposarlo e sarà mio genero. Voglio sapere tutto.» Aio rigliato. «Ammetto che era di Osborne che stavamo parlando, anche se c'è qualcosa che devo aggiungere in proposito. E poi, se ho capito bene, il tuo comportamento nei confronti di Roger è cambiato. E lui è stato accolto in questa casa meglio di quanto accadesse prima, perché tu hai iniziato a considerarlo l'erede imminente delle proprietà degli Hamley.» «Non capisco cosa intendete con imminente.» «Vai in ambulatorio allora e controlla sul dizionario», fece lui, arrabbiandosi per la prima volta in quella conversazione. «Sapevo», spiegò lei tra lacrime e singulti, «che Roger si era invaghito di Cinzia. Tutti potevano notarlo, e finché Roger restava un cadetto, senza professione, senza niente se non la sua borsa di studio, ho ritenuto giusto scoraggiarlo, come avrebbe fatto chiunque avesse un briciolo di buonsenso nel cervello. Infatti non ho mai conosciuto un tipo più goffo, più ordinario, più impacciato e più stupido di lui nell'alta società, voglio dire. Attenta, tra poco dovrà rimangiarti le parole quando arriverai a pensare che un giorno sarà padrone di Hamley.» «No, non lo farò», negò lei, senza percepire l'esatto significato delle sue parole. «Adesso voi siete irritato perché lui non è innamorato di Molly, e questo io lo trovo molto ingiusto e molto sleale nei confronti della mia povera figliola senza papà. Di certo io ho sempre tentato di fargli interessi di Molly come se fosse figlia mia.» Mr. Gibson era troppo indifferente a questa accusa per farci caso. Tornò dunque a ciò che per lui era più importante. «Il punto che voglio chiarire è questo: hai o non hai modificato il tuo atteggiamento con Roger in conseguenza di ciò che hai origliato della mia discussione professionale con il dottor Nichols? Non hai incoraggiato da quel momento il suo corteggiare Cinzia, ritenendo, da ciò che hai compreso di quella conversazione, che egli avesse buone probabilità di ereditare Hamley?» «Immagino di sì», rispose lei scontrosa, «e se l'ho fatto non ci vedo alcun male. Sono addirittura sotto interrogatorio come al banco dei testimoni. Lui era innamorato di Cinzia ben prima di quel vostro colloquio e a lei piaceva così tanto. Non sarò certo io a intralciare il corso del vero amore. Non vedo come voi pensiate che una madre possa amare una figlia se non può volgere a suo vantaggio delle circostanze accidentali. Forse Cinzia sarebbe potuta morire se i suoi sentimenti fossero stati ostacolati. Il suo povero papà è morto di consunzione. Non sai che tutte le conversazioni professionali sono confidenziali, che per me sarebbe la cosa più disonorevole del mondo tradire segreti di cui vengo a conoscenza nell'esercizio della mia professione?» «Sì, certo, per voi lo sarebbe. Bene, e io e te non siamo forse una sola persona a questo riguardo? Tu non puoi compiere un atto disonorevole senza che io sia complice del crimine. Se da parte mia tradire un segreto professionale e commettere un grave torto, cosa diventerebbe se io lucrassi su quelle informazioni? Si stava sforzando di mantenere la calma, ma la colpa era di una tale sorta che lo irritava intollerabilmente. Non so cosa intendiate per lucrare. Lucrare sui sentimenti di una figlia è l'ultima cosa che farei. E forse ho pensato che voi sareste stato parecchio contento e non il contrario, che Cinzia si sposasse bene, così da non doversi più far mantenere da voi. Mr. Gibson si alzò in piedi e si mise a camminare su e giù per la stanza con le mani in tasca. Un paio di volte fece per parlare, ma si interruppe con impazienza senza continuare. Non so cosa dirti, riprese poi. O non ci riesci, o non vuoi capire cosa intendo. Io sono felice di avere qui Cinzia. Le ho dato un sincero benvenuto e spero davvero che lei qui si senta a casa tanto quanto mia figlia. Ma per il futuro dovrò controllare le porte e chiudere gli accessi a doppia mandata, se sono così sciocco da... Comunque è acqua passata e resta mio dovere impedire, per quanto mi è possibile, che si ripeta in futuro. E adesso sentiamo come stanno le cose.